La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. La nostra Costituzione è divisa in tre parti. Abbiamo i primi 12 articoli, i principi fondamentali, poi abbiamo la parte prima, diritti e doveri dei cittadini, che va dall'articolo 13 all'articolo 54. La parte seconda, che inizia dall'articolo 55, è la parte sull'organizzazione della Repubblica. Quindi con l'articolo 13 si apre la parte sui diritti e doveri dei cittadini e si pone il primo diritto di libertà, la libertà personale. Qui possiamo apprezzare il testo semplice, diretto della Costituzione, la libertà personale è inviolabile, senza aggettivi, senza soggetti, proprio per garantire in sé la prima delle libertà, cioè la libertà dagli arresti, il fatto che la persona fisica possa vivere liberamente senza aver timore di uno stato di polizia. Ovviamente è una scelta storica ben precisa porre la libertà personale, libertà dagli arresti, come primo articolo sulle libertà, e poi far seguire a questa affermazione amplissima, con garanzia, diciamo, limpida della inviolabilità, quindi della intoccabilità, far seguire una disciplina specifica proprio della detenzione. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, ispezione, perquisizione, se non con garanzia di giurisdizione. Deve essere atto motivato dell'autorità giudiziaria sulla base della legge, nei casi e nei modi previsti dalla legge. Quindi, per essere limitati nella libertà personale, perquisiti, ispezionati, serve sempre la volontà dell'atto del giudice sulla base della legge, sulla base delle indicazioni della legge. Ci possono essere eccezioni e qui la Costituzione le pone solo in casi eccezionali di necessità e di urgenza. Può essere disposto quello che viene chiamato il fermo di polizia, cioè l'autorità di pubblica sicurezza adotta provvedimenti provvisori da comunicare entro 48 ore all'autorità giudiziaria. Qui vediamo che scende proprio nello specifico la Costituzione perché, anche qui per ragioni storiche, andava tutelata la libertà personale e limitato il potere della forza pubblica. La Costituzione è direttamente applicabile, subito ci pone queste regole. Limitazioni solo con atto del giudice, in base alla prescrizione di legge, in via eccezionale, fermo di polizia per sole 48 ore. Gli ultimi due commi precisano altri aspetti. Innanzitutto, la tutela dei detenuti. È vietata ogni forma di violenza fisica e morale sui detenuti, quindi la piena dignità e i diritti dei detenuti e anche, poi, ultimo comma, la carcerazione preventiva, cioè quella prima della condanna, prima del processo, è stabilita nella durata massima dalla legge. Durata massima che deve essere ragionevole, anche perché, come vedremo nell'articolo 27, c'è la presunzione di innocenza, quindi prima della condanna ci può essere una carcerazione cautelare, ma solo per tempi limitati. Ecco che dall'articolo 13 emerge nella sua pienezza la garanzia della libertà della persona. E questa libertà non è solo libertà fisica, perché poi negli anni la Corte Costituzionale ha basato proprio sull'articolo 13 la libertà morale, la dignità, il diritto alla riservatezza, quindi la privacy e tutto ciò che è connesso comunque alla libertà della persona.